porta ha segnalato la veneta Galia che a Cipro adduce gli ambasciatori. Bene sta! Continua! Qui tra Rocasso e con Aspuri in ghiesola d'escaro a ciarla. Qua era nascosto, frutati voti suoi, le sue parole, i razzi, i gesti, paziente siate, o la prova vi sfugge. Cotestevola, finge col piede, io vado. Il fazzoletto va con un piede ha beato la fe. Thank you. Dimmi chi sei. Nascosto, vedendo questo. Sara, tu e ti fanno. Ho preso, vedete, vedete. Il cuore ti credo. Yeah. Intanto, già che non si stanca mai la tua lingua, nelle folle gaglie. Narmi un po', direi che ti innamora di chi? Di Maria! Maria! Santa vince, cova di là, rida di lei, ridi che vince. In te di sfida per verità, vince chi rida. Ci sazierai, ridimi far, uomo fugaci. La gente del regno, la libertà, poi ne segno. Thank you. ucciderò! E l'essere vento meglio a riso! Ti faccio letto! Vedi! E condanna! Ma che voglio vedere per questa notte? Mi posso no! Ma meglio soffocarlo! La... Il suo letto! La... Oh! Mi accogliete, fatemi dar sospetti, Desdemona si mosse in primi servizi, e la voce. Ai, sei il tuo pensiero, e riesce ner su ciò la lingua muta, e lui nell'anima la sfrutta. pensiero, se m'accorgo, vede l'insegnamento.